America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Bene, ho intervistato negli ultimi giorni, anche la settimana scorsa, i candidati alle nostre elezioni e il loro rapporto con l'America. Uno dei punti che ho affrontato con tutti i candidati, devo dire, è stato quello relativo al ruolo delle lobby in America e il fatto che forse ne avremmo bisogno anche noi di avere qualche cosa di più trasparente dal punto di vista delle lobby. E dunque vorrei dedicare la puntata di oggi proprio alle lobby e a cosa sono le lobby in America. E dunque ho fatto una chiacchierata che vi ripropongo più avanti con Tony Podesta, che è uno dei più importanti lobbisti americani a Washington, fratello di John Podesta, tra l'altro, ma cominciamo prima con il caso di Anita Dunn. So I think people will draw their own conclusions about the reflexive negativity on the part of some commentators, regardless of what happens. Anita Dunn è stata direttore delle comunicazioni della Casa Bianca nel 2009 ed è stata soprattutto più recentemente, dopo che ha lasciato la Casa Bianca, una delle spalle del presidente Barack Obama in alcune delle prove del dibattito. Ecco, un personaggio naturalmente di straordinario profilo, molto importante. Che succede? Che improvvisamente il New York Times le ha dedicato un articolo di prima pagina. Perché? Perché la signora Dunn, quando ha smesso di lavorare per la Casa Bianca, è tornata a lavorare con un'agenzia di comunicazioni con cui lavorava prima di entrare a far parte dell'amministrazione Obama, la SKDK Knickerbocker di Washington, che è un'agenzia di comunicazione. Qual è il senso di questo articolo del New York Times? È che la signora Anita Dunn continua a essere molto vicina a Barack Obama. Non solo, il marito di Anita Dunn, Robert Bauer, è uno dei principali consiglieri legali di Barack Obama. Ecco, cosa è successo? Che quando questa signora ha lasciato formalmente la Casa Bianca ed è tornata a lavorare con questa agenzia di comunicazione SKDK Knickerbocker, il numero dei clienti di questa agenzia è aumentato enormemente. Parliamo di General Electric, dell'ATT, Time Warner, Pratt & Whitney. Qual è l'oggetto del contendere? C'è un conflitto di interessi tra questa signora, che è così vicina all'amministrazione Obama, col marito che si occupa di questioni legali del presidente, e il fatto che poi aiuta alcuni clienti a meglio interpretare certe regole o come si sta muovendo l'amministrazione? Beh, secondo me c'è, secondo il New York Times c'è, perché il New York Times, che tra l'altro è vicino ai democratici, a Barack Obama, non ha esitato nel pubblicare una storia che, secondo il quotidiano americano, dimostra in questo doppio ruolo di Anita Dunn, e qui cito il New York Times, i limiti del tentativo di Obama di voler cambiare il modo in cui funzionano le cose a Washington. Dunque, lobbismo o comunicazione? Perché il lobbismo e i lobbisti sono in realtà un settore molto ben regolato. Quello che ha potuto fare la signora Dunn è quello di farsi passare come un'esperta di comunicazione che non aveva bisogno delle regole più stringenti dei lobbisti. E dunque io ho intervistato un lobbista perché ritengo che i lobbisti dovrebbero svolgere un ruolo molto importante e trasparente anche nel nostro paese, e cioè Tony Podesta, il quale potrebbe avere anche lui degli ipotetici conflitti di interesse, perché il fratello John Podesta è stato il capo della transizione di Barack Obama, tuttora è molto attivo in politica. E dunque vi faccio sentire un'intervista che ho fatto qualche tempo fa con Tony Podesta a un evento proprio dove aveva invitato dei deputati, dei governatori, ma anche molti esponenti del mondo dell'industria. Different companies and trade associations and countries hire lobbyists to help them represent their point of view before the government. So it is a long tradition in this country. Allora, intanto ho chiesto a Podesta come funziona questo sistema delle lobby americane e la risposta è semplice. Mi dice: le varie società e associazioni assumono dei lobbisti che li aiutano a farsi sentire in congresso. È una grande tradizione di questo paese. Ci sono molti lobbisti a Washington, ma anche nelle capitali dei vari stati, e loro alla fine sostengono gli interessi dei loro clienti. Qual è l'origine del nome lobbista? Beh, questo posso raccontarvelo anch'io, perché è la lobby del Willard Hotel, dove spesso si scende a Washington per conferenze stampa o per incontri nella capitale. E però Tony mi spiega che risale addirittura all'epoca di Abramo Lincoln, quando l'albergo era stato costruito. E allora che cosa succedeva? Che chi doveva sottoporre delle questioni al governo aspettava nella lobby, nella hall, nell'ingresso dell'albergo, che è localizzato proprio davanti al Tesoro americano e poi alla Casa Bianca, e spesso il presidente stesso arrivava, qualche membro del Senato arrivavano. Dunque era l'opportunità per avvicinarli, per parlargli e per spiegargli il perché, per esempio, di la necessità di una modifica di una certa legge, o perché bisognava introdurne un'altra. There are about 8,000 registered lobbyists in Washington, and we have to register and disclose our clients. So it's all very transparent and disclose the issues that we're working on. Ecco, qui Podesta mi spiega quanto è grande l'industria, il settore delle lobby a Washington, e mi dice che ci sono circa 8.000 lobbisti registrati a Washington, nomi, cognomi, nomi dei clienti, interessi che seguono, e devo dire, questo è il punto di forza americano, che tutto è straordinariamente trasparente. E mi dice Tony che la trasparenza è essenziale per la democrazia, di modo che cittadini, stampa, altri politici, concorrenti, tutti possono sapere chi lavora per chi, quali sono gli interessi in gioco, che tipo di obiettivo si sta perseguendo. E lancia una provocazione: noi questo sistema lo abbiamo e funziona, e in Europa? Perché in molti vorrebbero una cosa simile nel capitale europeo, però non passa. We work for many organizations of patients in who need new medicines, and we work with the Congress and with on creating a new law. Ho chiesto a Tony di darmi un esempio di operazioni di successo che hanno funzionato per entrambe le parti, perché l'idea, dice Tony, è che portando una certa istanza si aiuta non soltanto l'azienda, ma si aiuta il consumatore e si aiuta il politico a risolvere un problema. E l'esempio che mi dà è questo lavoro. Mi dice che ha fatto per un'associazione di pazienti che avevano bisogno di certe medicine. Queste medicine erano carissime, non erano disponibili. Ha raggiunto un accordo con alcuni membri del Congresso in forma bipartisan, repubblicani, democratici, e insieme hanno trovato il modo per facilitare lo sviluppo di medicine attraverso biotecnologie. E che è successo? Che poi questa soluzione che hanno trovato è stata introdotta nella riforma sanitaria di Obama e dunque è passata, è diventata legge, e dunque in questo modo si è ampliata la gamma di medicina a disposizione dei pazienti. Mi racconta Tony che la sua azienda, che è la più importante di Washington tra l'altro, ha 86 impiegati, di cui 40 sono dei lobbisti senior, e mi spiega anche qual è la differenza con uno studio legale. Well, some of us are lawyers, but we don't practice law. We don't appear in court. We don't. We can draft statutes, but anyone can draft laws and present them to the Congress for their consideration. Intanto mi dice che lui ha studiato legge e molti di loro hanno studiato legge, però non fanno gli avvocati. Però ce ne sono altri che vengono dal giornalismo, dalla politica, esperti della sanità, della finanza, e quindi che hanno contatti, hanno le idee chiare, sanno come funziona un certo settore. Un gruppo, insomma, molto diversificato di persone che può servire nel modo migliore quelle che sono le esigenze, spesso altrettanto diversificate, dei clienti. Il punto chiave, il conflitto di interesse. Beh, glielo chiedo in modo molto diretto, dico: ma c'è stato mai qualcuno che ha sollevato il problema di un conflitto di interessi perché tuo fratello è in politica? Dico, il rapporto è strettissimo. Sentiamo cosa mi dice. My brother worked in the Clinton White House, and we had a policy in the family that I never spoke about business to my brother. We had dinner every Sunday night. Did you have some spaghetti every now and then? We ate a lot of pasta, but and some risotto, but never did we talk. Mio fratello, mi dice Tony, sì, ha lavorato nell'amministrazione Clinton. Ma avevamo una regola in famiglia: io non parlavo mai di lavoro con lui, e quindi non ho mai avuto una riunione o una telefonata con mio fratello a proposito di questioni politiche. Di sicuro ci vedevamo soprattutto per farci una bella spaghettata. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, restiamo in tematica post San Valentino e dunque una canzone d'amore. Unforgettable di Nat King Cole. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.